quella dell'intrattenimento delle truppe in zona operazioni è una tradizione consolidata. Ha avuto inizio verso la metà della Seconda Guerra Mondiale, quando la forzata militarizzazione dell'industria americana si estese fatalmente a Hollywood e trovò la forma delle visite al fronte, forse più esattamente nelle retrovie, da parte dei principali divi dell'epoca, che con i militari in servizio doverosamente si intrattenevano e per loro si producevano in veri e propri, non sempre improvvisati, spettacoli di varietà. A partecipare a siffatte operazioni erano tenute praticamente tutte le star della capitale del cinema, appena la lista nera, ma alcune tra loro finivano con lo specializzarvisi, come l'immarcescibile Bob Hope, che avrebbe proseguito instancabile in quell'attività negli anni della Corea, in quelli del Vietnam e oltre ancora, ma anche Marlene Dietrich, il prototipo assolutamente non americano della donna fatale, che doveva ovviamente scontare con l'assidua frequentazione a quei programmi di propaganda la sua origine germanica, e ne sarebbe stata punita dai suoi compatrioti mezzo secolo dopo con il rifiuto dei funerali di Stato. Naturalmente, siccome nell'industria dello spettacolo, almeno in America, non si butta mai via niente, anche quelle partecipazioni straordinarie sono state messe a frutto, registrate su pellicola dai tecnici dell'esercito o riprodotte accuratamente in studio di fronte ad autentici militari gentilmente fornite dalle autorità competenti, venivano a volte montate in veri e propri film destinati a essere poi regolarmente distribuiti. Di qualcuno era stata memoria fino a noi, almeno nei testi specializzati. Possiamo citare, tanto per fare dei titoli, Report from the Front, che è un cortometraggio con Humphrey Bogart del 44, o Hollywood Victory Caravan del 45, in cui lo stesso autore, fresco del successo di Casablanca, esortava a comprare buoni del prestito di guerra. Uno o due di questi film del dopoguerra sono stati persino distribuiti in Italia con strani titoli di fantasia, come La nave della morte, titolo dietro cui si cela Follow the Boys del 44, nel cui cast figurano George Raft, Vera Zoraina, W.C. Fields, The Andrew Sisters e soprattutto un giovanissimo ma già luciferino Orson Welles, che in una di quelle scene di illusionismo cinematografico che tanto gli piacevano sega in due la sua vecchia amica Marlene. Altri tempi, naturalmente. Oggi lo star system è tutta un'altra cosa. Gli attori al livello di Welles e della District non ne girano e quelli in circolazione non sono più schiavi di lusso alle strette dipendenze degli studios, per cui di andare a prodursi deviso nelle retrovie non ci pensano nemmeno. A questo è meno. Il fatto è che a pensarci bene non ci sono le retrovie. Di guerre non ne mancano, in un paio di quelle toste siamo coinvolti anche noi, ma dove esattamente stia il fronte non lo saprebbe dire proprio nessuno. Si combattono ovunque, in diretta e sempre sotto l'occhio pervasivo del Grande Fratello televisivo, che non fa differenza tra deserti iracheni, montagne dell'Afghanistan e i palazzi del potere di casa. E di quanto passa al convento della televisione dal punto di vista dell'intrattenimento, i combattenti devono accontentarsi. Oh, questo non vuol dire, naturalmente, che i nostri o gli altri ragazzi in zona di guerra, la sera, esaurite le quotidiane fatiche del peacekeeping o dell'occupazione militare, che poi è la stessa cosa, possano rilassarsi guardandosi, se lo desiderano, l'ultimo sceneggiato di successo o i quiz di Amadeus o Dio non voglia al Festival di Sanremo. Sarebbe troppo facile. In tempi di guerra in diretta, dell'ambaradan televisivo il soldato al fronte non è semplice fruitore, ma è protagonista di spicco. Gli acquartieramenti sono visitati continuamente da anchormen accattivanti e da belle inviate speciali. Gli ufficiali comandanti devono preoccuparsi più dei problemi di copertura mediatica che di quelli di tattico strategia. Ogni personalità in visita si porta dietro una carrettata di teleoperatori e giornalisti vari. Se nel loro seguito non mancano nei guitti nei menestrelli, non sono lì per intrattenere i soldati. E sono i soldati, in effetti, che ben lungi dall'essere intrattenuti da qualcuno, devono intrattenere noi. Così, Così l'inopinata comparsa dei nostri ragazzi in quegli insulsi siparietti a Sanremo, che pure è riuscita a scandalizzare qualcuno, tutto sommato era affatto normale e del tutto prevedibile. Quei poveri giovani sono, come ci si ripetono continuamente, dei professionisti seri, e anche in quella sede da bravi professionisti hanno fatto il loro dovere. Che è quello di ricordarci, con quella presenza ostentata, senza preoccupazione di incongruità, che nonostante le apparenze in pace non siamo, e che come qualsiasi popolazione in guerra, porca miseria, dobbiamo smetterla con le nostre menate e deciderci finalmente a stringerci attorno a chissà che cosa è meglio per noi. E poi lo stesso messaggio, guardate, che veniva chiesto di trasmettere ai divi del cinema 40 anni or sono, anche se probabilmente allora vi si pagava di più. Ma che volete? Le guerre, tutte le guerre, quelle vere e quelle finte, quelle ostentate e quelle negate, sono state inventate esattamente per questo.